Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo ormai a metà novembre, data cruciale per gli automobilisti perché insomma da un paio d'anni ormai c'è l'obbligo su alcune strade del territorio di utilizzare le gomme invernali o le catene da neve lì dove evidentemente nevica, però l'obbligo delle gomme è previsto dal codice della strada. È stato uno degli argomenti portanti dei nostri collegamenti con l'Adico e ritorna anche nel 2013. Ben trovato al presidente dell'Adico Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, stagione per stagione, inverno dopo inverno, torna questo argomento e ormai ci siamo. Chi soprattutto frequenta e transita in certe strade sa che ha l'obbligo di fare il cambio da gomme estive o gomme normali a gomme invernali. Sì Mirko, come anticipato pochi istanti fa, il tema delle gomme invernali è un tema molto caldo e anche molto sentito, perché comunque di là di quello che è un problema legato alla sicurezza, comunque alla fine anche in questo periodo dell'anno le persone, le famiglie che devono guidare sono costrette a mettere mano di nuovo al portafoglio, in quanto metà novembre scatta l'obbligo di dover dotarsi di gomme invernali o adeguato equipaggiamento come per esempio le catene per poter circolare. Ricordiamo come la maglia, che è un dispositivo alternativo alle catene che molte auto avevano perché magari non avevano le gomme catenabili, non vengono riconosciute e quindi l'automobilista che viene colto in flagrante con la maglia viene sostanzialmente multato. Ecco, io ricordo, lo leggo da un comunicato dell'ANAS, quali sono le strade interessate in Veneto: la statale 12 del Brennero, la 51 di Alemagna da Vittorio Veneto fino a nord, la statale del Grappa del Passo Rolle, poi ancora la statale di Alemagna, la strada per Castellavazzo, per Cavallera, insomma tutte le strade a nord. Però ci sono, ricordiamo Carlo, anche tratti autostradali che registrano questo obbligo. Allora amico, ti dirò che oggi individuare i tratti autostradali in quali è possibile circolare senza i mezzi è veramente difficile. Ormai i divieti sono così diffusi a macchia di leopardo che sostanzialmente pensarla di farla franca è praticamente impossibile. Certamente è un obbligo che, come hai detto all'inizio della puntata, costerà parecchio alle persone, perché anche di questi giorni l'Adico ha fatto un'indagine e ha voluto verificare anche per chi ha le gomme quanto gli costerà il cambio rispetto a chi non deve comprarle, che certamente dovrà spendere molto di più. Ecco, allora facciamo due prezzi per avere un'idea. Chi le ha già, magari le tiene a casa oppure le ha in deposito, perché c'è anche questa variabile. Sì, noi abbiamo calcolato per un'auto di media cilindrata che ha un 15 pollici di cerchio, un 185 di gomma, giusto per avere un dato uniforme, abbiamo chiamato circa una ventina di gommisti per capire appunto i prezzi, e sostanzialmente abbiamo constatato cosa? Che per quanto riguarda la sostituzione della gomma sui cerchio c'è praticamente un cartello, quasi tutti eccetto uno chiedono 40 euro, cioè 10 euro a gomma, addirittura il caso specifico ne chiedeva 50, 40 euro che certamente diventano 80 perché bisogna cambiare, abbiamo detto, a distanza di 6 mesi a metà aprile, quindi due volte all'anno. Poi rimane invece per chi invece deve cambiare la ruota perché è già munito di cerchione, invece il prezzo normalmente cala e si riduce a circa 25 euro ogni 6 mesi. Il dato che più ci è veramente saltato all'occhio ed è quello che secondo noi è oggetto più di discussione è il deposito, come hai detto tu, in quanto abbiamo notato delle grandissime disparità tra gommisti, tra coloro che arrivano addirittura a chiedere 75 euro all'anno per tenere le gomme presso il proprio garage, o chi addirittura non chiede niente perché magari pensiamo sia un cliente abituale. ci sono anche queste attenzioni da avere, contando appunto che poi nel corso dell'anno tutto si moltiplica per due, dalla metà di novembre alla metà di aprile. Ricordo, ma lo fa l'ANAS innanzitutto, che anche se nevicasse ad esempio oggi, non siamo ancora al 15 di novembre, per assurdo sarebbe obbligatorio avere quel tipo di gomme o di catene, e anche se le condizioni meteo fossero sfavorevoli dopo il 15 di aprile. Per quanto riguarda i motocicli, non tutti lo sanno, nel periodo 15 novembre 15 aprile possono circolare solo se non c'è neve e ghiaccio sulla strada, oppure nevicate in atto. Invece poi sappiamo che anche i ciclomotori cercano di arrabattarsi in qualche modo, anche pericolosamente evidentemente, quando c'è neve. E poi c'è il costo: se uno le ha consumate nel corso degli anni oppure le deve mettere per la prima volta, c'è un costo di base dell'acquisto di queste gomme. Anche qui, come hai detto tu, c'è un costo che varia molto. Noi abbiamo fatto sempre questa indagine su un cerchione, appunto su una gomma di 15 pollici, e abbiamo constatato un prezzo medio intorno ai 120-130 euro. Certamente questo prezzo può variare moltissimo a seconda della marca o a seconda di quelle che sono le strategie che le persone possono adottare quando si naviga per esempio su internet e si può confrontare i prezzi. Addirittura si può arrivare a spendere 80 euro a gomma. Certamente la marca è molto importante, ma soprattutto poi bisogna tenere conto anche del montaggio, perché molte volte questi venditori sono convenzionati con dei gommisti, i quali ti possono chiedere delle cifre a parte. Molto importante, poi concludo anche, Mirko, sono alcune etichette che bisogna sapere leggere sulla gomma, al quale non solamente fa riferimento al diametro del cerchio o alla larghezza in pollici, ma c'è anche l'omologazione della velocità, in base alla quale c'è una lettera che può essere di una H, come può essere una Z, come può essere una Y, una S, una T, che impone un po' i limiti massimi in cui l'autovettura può circolare, può raggiungere, e soprattutto è molto importante l'anno in cui la gomma è stata prodotta, alla quale c'è un numero molto importante, tipo 0807, vuol dire l'ottava settimana dell'anno 2007, perché la gomma, ricordiamo, che non è soggetta ad usura solamente per effetto di chilometri percorsi, ma anche per il fatto di della gomma che con gli anni può comunque indurirsi, per cui molta attenzione soprattutto negli acquisti a verificare appunto l'anno di nascita. Appunto, che non ci rifilino delle gomme vecchie, tra virgolette scadute, un po' come lo yogurt. Sì, gomme vecchie scadute che sicuramente vanno a modificare quelle che sono un po' le caratteristiche e le prestazioni, perché una gomma vecchia si indurisce, certamente perdendo di caratteristiche sicuramente perdi di tenuta. Però ribadisco, normalmente sono dei semplici consigli che possono permettere a tutti di poter acquistare la gomma in massima tranquillità. L'unica cosa, ecco, fate attenzione alle persone quando l'acquistano, di parlare bene con il carrozziere per definizione dei prezzi, e soprattutto farselo mettere per iscritto, perché poi negli anni questi prezzi variano sempre, in particolar modo il deposito e la sostituzione della gomma sul cerchio. Buon viaggio allora, sperando che la neve non cada abbondante, soprattutto in pianura. In montagna ci sono più abituati, in modo da evitare anche problemi e disagi. Tra un paio di giorni un nuovo argomento con l'Adico. Grazie a Carlo Garofolini e buon proseguimento. Grazie a te, amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.